insieme, ci siamo scaldati, ferite che non rimangono, no, no, no, ferite e non rimarginate, e so che non è facile essere felice senza di me. Stringendoti, ti tengo forte, stringendoti i polsi, le mani, le braccia, lontano dal corpo, ti respiro addosso, stringendoti, quando stai per godere, quando stai per godere, ti tengo forte, ti tengo forte, forte. Forte. Ti tengo forte, forte. Ti tengo forte. Come on.